ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Domenica, le 11. L'ordine gerarchico all'interno della mia vita è un po' cambiato. Una volta preferivo cominciare a stomaco vuoto con Dostoevsky o con Hegel, e a tempo perso, quando ero nervosa, mi capitava anche di rammendare una calza, se proprio non si poteva fare altrimenti. Ora comincio con la calza, nel senso più letterale della parola, e poi pian pianino, passando attraverso le altre incombenze quotidiane, salgo verso la cima, dove ritrovo i poeti e i pensatori. Dovrò ancora sbarazzarmi faticosamente di queste espressioni patetiche, se vorrò mai fare una figura decente, però credo che si tratti soprattutto di pigrizia nel cercare le parole giuste. Le 12:30, dopo la passeggiata, che è già diventata una bella tradizione. Martedì mattina, studiando Lermontov, scrivevo che dietro la sua testa spuntava sempre quella di S, che avrei voluto rivolgermi a quel caro viso, parlargli e accarezzarlo, che così non riuscivo a lavorare. È passato molto tempo da allora. È già tutto un po' diverso. Il suo volto c'è ancora mentre lavoro, ma non mi distrae più. È diventato come un paesaggio amato e familiare che sta sullo sfondo. I suoi tratti sono sfumati. Non vedo più un volto preciso. Si è dissolto in atmosfera, spirito o altro che sia. E con ciò ho toccato un punto importante. Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul cuore o addirittura mangiarmelo. La cosa era più difficile quando si trattava di un paesaggio intero, ma il sentimento era identico. Ero troppo sensuale, vorrei quasi dire troppo possessiva. Provavo un desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano, le volevo avere. È per questo che sentivo sempre quel doloroso, insaziabile desiderio, quella nostalgia per un qualcosa che mi appariva irraggiungibile, nostalgia che chiamavo allora impulso creativo. Credo che fossero queste forti emozioni a farmi pensare di essere nata per fare l'artista. Ora, d'un tratto, non è più così, anche se non so dire per quale processo interiore. Me ne sono appena resa conto stamattina, ripensando a una piccola passeggiata intorno all'Eichklub qualche sera fa. Era il crepuscolo, tenere sfumature nel cielo, misteriose sagome delle case, gli alberi vivi col trasparente intreccio dei loro rami. In una parola, era un incanto. Mi ricordo benissimo di come sentivo una volta. Trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore. Allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che farmene di quel dolore. Allora sentivo il bisogno di scrivere o di fare poesie, ma le parole non mi volevano mai venire e mi sentivo terribilmente infelice. In fondo io mi ubriacavo di un paesaggio simile e poi mi ritrovavo del tutto esaurita. Mi costava un'enorme quantità di energie. Ora chiamerei questo comportamento onanismo. Ma quella sera, solo pochi giorni fa, ho reagito diversamente. Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo, ma in modo, per così dire, oggettivo. Non volevo più possederlo. Sono tornata a casa rinvigorita, al mio lavoro, e quel paesaggio è rimasto presente sullo sfondo, come un abito che rivesta la mia anima, tanto per dirla con paroloni. Ma non mi impacciava più, non era più onanismo. E così è con esse, come del resto con tutti. Anche la crisi di quel pomeriggio, quando ero rimasta seduta a fissarlo tutta rigida e incapace di aprir bocca, era probabilmente dovuta a un atteggiamento possessivo. Mi aveva raccontato varie cose della sua vita personale, della moglie da cui è separato ma con cui è rimasto in corrispondenza, dell'amica con cui vuol sposarsi ma che si trova a Londra, è sola e soffre, e poi ancora di un'altra amica che aveva avuto una volta, una bellissima cantante con cui pure è rimasto in corrispondenza. Più tardi, mentre facevamo di nuovo la lotta, io avevo sentito la suggestione del suo grosso corpo attraente. E poi, quando mi ero seduta di nuovo di fronte a lui ed ero ammutolita, forse avevo avuto la stessa reazione di quando attraverso un paesaggio che mi tocca l'anima. Lo volevo possedere. Volevo che esse fosse anche mio. Per quanto io non lo desideri come uomo, non mi ha ancora veramente colpita, sessualmente parlando, anche se sento sempre quella tensione in sottofondo. Esse mi ha toccata nel profondo del mio essere, e questo è ancora più importante. E così lo volevo avere in un modo o nell'altro. Provavo odio o gelosia per tutte le donne di cui mi aveva raccontato, e forse mi chiedevo, sia pure inconsciamente, se sarebbe rimasto qualcosa per me, e me lo sentivo sfuggire. Erano sentimenti piuttosto meschini, non certo elevati, ma me ne rendo conto soltanto ora. In quel momento io mi sentivo infelicissima e sola, cosa che adesso capisco benissimo. Avrei voluto andar via e mettermi a scrivere. Credo di capire anche questo. È un altro modo di possedere, di attirare le cose a sé con parole e immagini. L'impulso che mi spingeva a scrivere deve essere stato soprattutto il desiderio di nascondermi agli altri con tutti i tesori che avevo accumulato, di annotare ogni cosa e di goderla tenendomela per me. E adesso, improvvisamente, questo atteggiamento che per ora chiamo possessivo è cessato. Mille catene sono state spezzate. Respiro di nuovo, liberamente. Mi sento in forze e mi guardo intorno con occhi raggianti. E ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera, ora possiedo tutto e la mia ricchezza interiore è immensa. Esse è completamente mio adesso, anche se domani dovesse partire per la Cina. Me lo sento intorno e vivo nella sua sfera. Se lo rivedrò mercoledì mi farà piacere, ma non sto più a contare nervosamente i giorni come facevo la settimana passata. E non chiedo più a Han 100 volte al giorno: mi vuoi ancora bene? Mi vuoi ancora tanto bene? Sono proprio il tuo tesoro. Anche questo era un modo di aggrapparsi, un aggrapparsi fisico a ciò che fisico non è. Ora vivo e respiro con la mia anima, sempre che mi sia concesso usare questo termine screditato. E ora capisco anche le parole di esse, dopo la mia prima visita da lui. Quel che c'è qui, indicava la testa, deve finire qui, indicava il cuore. Allora io non capivo bene come questo processo potesse attuarsi nel suo lavoro, ma in ogni caso è successo, anche se non saprei dire come. Ha pure assegnato il posto giusto alle cose che già facevano parte di me, come in un puzzle. Tutti i pezzetti erano sparsi alla rinfusa e lui li ha ricomposti in un insieme ricco di significato. Non so come ci sia riuscito, ma questa è una cosa che riguarda lui, è per così dire il suo mestiere. E non per nulla si parla di lui come di una personalità magica. Mercoledì. Mi sorprendo ad aver voglia di musica. Pare che io non sia sprovvista di senso musicale. E la musica mi tocca sempre molto se mi capita di ascoltarla. Ma non ho mai avuto la pazienza di mettermici. La mia attenzione andava sempre alla letteratura e al teatro, cioè ai campi in cui io posso continuare a pensare. Ed ecco che ora, in questa fase della mia vita, la musica comincia a far valere i suoi diritti e io sono di nuovo in grado di abbandonarmi a qualcosa e di dimenticare me stessa. Sento soprattutto il desiderio dei classici puri e sereni, non di questi tormentati moderni. Di sera, 9:00. Mio Dio, stammi vicino e dammi forza, perché la battaglia si farà dura. Oggi pomeriggio la sua bocca e il suo corpo erano così vicini, non riesco più a dimenticarli. Non voglio avere una relazione con lui, però stiamo andando in quella direzione, ma non voglio. La sua futura moglie è a Londra e l'aspetta, e per parte mia ho ben cari i miei legami. Ora che sto pian piano diventando più raccolta, mi rendo conto di essere una persona terribilmente seria, che non scherza con l'amore. Voglio avere un uomo per tutta la vita e voglio costruire qualcosa con lui. In fondo, tutte le avventure e le relazioni che ho avuto mi hanno resa terribilmente infelice, mi hanno straziata. D'altra parte, la mia resistenza non era mai stata abbastanza forte e cosciente. La curiosità aveva sempre avuto il sopravvento. Ma ora che le mie forze interiori hanno potuto organizzarsi, esse hanno anche cominciato a lottare contro il mio desiderio di avventure e contro la mia curiosità erotica, che si interessa a molti uomini. In fondo, è solo un passatempo. Un uomo lo si può capire benissimo con l'intuizione, non c'è bisogno di avere una relazione con lui. Ma santo cielo, sta diventando proprio difficile. Oggi pomeriggio la sua bocca era così familiare, così dolce e vicina, che ho dovuto sfiorarla con le mie labbra. Abbiamo cominciato a fare la lotta con distacco e alla fine riposavamo l'uno nelle braccia dell'altro. Non mi ha baciata, anche se a un certo punto mi ha dato un bel morso sulla guancia. Ma la cosa indimenticabile per me è stata quando, tornato completamente se stesso, mi ha chiesto con apprensione e con timidezza quasi dolorosa: «E la bocca? Non le è dispiaciuta la bocca?» È quello il suo punto debole. La lotta contro la propria sensualità, localizzata in quella bocca pesante e meravigliosamente espressiva, e il timore di spaventare gli altri con quella bocca. Un tipo commovente, ma la mia pace è perduta. E ha aggiunto: «Ma la mia bocca deve ancora diventare più piccola», e ha accennato al suo labbro inferiore, che sporge singolarmente dall'angolo destro e fa come una grossa curva, un trattino di labbro che è andato per conto suo. «Ha mai visto una stranezza simile? È molto rara». Non ricordo più le parole precise. Di nuovo ho sfiorato con le mie labbra quel capriccioso pezzetto di bocca, ma non l'ho ancora veramente baciato. Non provo ancora una vera passione per lui, però mi è infinitamente caro e non vorrei che questo sentimento così buono e umano venisse intorbidato da una relazione. Venerdì 21 marzo, 8:30 di mattina. Per la verità non voglio scrivere niente, mi sento così leggera e raggiante, contenta, che ogni parola peserebbe come piombo in confronto. Però stamattina mi sono proprio guadagnata questa gioia interiore. Ho dovuto lottare contro l'irrequietezza del mio cuore che batteva all'impazzata. Mi sono lavata con acqua gelida dalla testa ai piedi e sono rimasta sdraiata sul pavimento del bagno fin tanto che non mi sono sentita completamente calma. Sono diventata una persona pronta a combattere, come si dice, e provo un certo piacere sportivo, una certa eccitazione all'idea di questa lotta. Debbo anche vincere quella paura indefinita che mi porto dentro. La vita è difficile davvero. È una lotta di minuto in minuto. Non esagerare, tesoro. Ma è una lotta invitante. Una volta io mi immaginavo un futuro caotico perché mi rifiutavo di vivere l'istante più prossimo. Ero come un bambino molto viziato, volevo che tutto mi fosse regalato. A volte avevo la certezza, peraltro molto vaga, che in futuro sarei potuta diventare qualcuno e avrei realizzato qualcosa di straordinario. Altre volte mi ripigliava a quella paura confusa che sarei andata in malora lo stesso. Comincio a capire perché. Mi rifiutavo di adempiere ai compiti che avevo sotto gli occhi. Mi rifiutavo di salire verso quel futuro di gradino in gradino. E ora, ora che ogni minuto è pieno, pieno sino all'orlo di vita e di esperienza, di lotta e vittorie e cadute, ma subito dopo di nuovo lotta e talvolta pace, ora non penso più a quel futuro. In altre parole, mi è indifferente se riuscirò a produrre qualcosa di straordinario oppure no, perché sono certa che ne verrà fuori qualcosa. Una volta vivevo sempre come in una fase preparatoria. Avevo la sensazione che ogni cosa che facevo non fosse ancora quella vera, ma una preparazione a qualcosa di diverso, di grande, di vero, appunto. Ora questo sentimento è cessato. Io vivo, vivo pienamente, e la vita vale la pena viverla ora, oggi, in questo momento. E se sapessi di dover morire domani, direi: mi dispiace molto, ma così come è stato un bene. In teoria ho già predicato queste cose. Ricordo che era una sera d'estate e che eravamo seduti fuori da Reinders con Franz, ma nelle mie parole di allora c'era soprattutto stanchezza, qualcosa come: vedi, se domani finisse tutto non me ne farei un gran problema, tanto sappiamo come stanno le cose. La vita la conosciamo, abbiamo già vissuto tutto, sia pure in spirito, non siamo più così spasmodicamente attaccati alla vita. Mi sembra che il tono dei miei discorsi fosse all'incirca questo. Eravamo proprio molto vecchi, saggi e stanchi. Ma ora è diverso. E adesso al lavoro. Sabato, le 8 di sera. Devo badare a tenermi in contatto con questo quaderno, vale a dire con me stessa. Altrimenti potrebbe andar male, potrei smarrirmi a ogni momento. Anche adesso mi sento un po' così, ma potrebbe essere stanchezza. Domenica 23 marzo, le 4. È tutto sbagliato un'altra volta. Io voglio qualcosa e non so che cosa. Di nuovo mi sento presa da una grandissima irrequietezza e ansia di ricerca, tutto in tensione nella mia testa. Penso con una certa invidia alle ultime due domeniche. Le giornate si stendevano dinanzi a me come grandi, aperte pianure che potevo attraversare liberamente. Erano prospettive ampie e sgombre. E ora mi ritrovo in mezzo agli arbusti. Tutto è cominciato ieri sera, quando l'irrequietezza ha preso a salirmi dentro da ogni parte come i vapori da una palude. Volevo fare un po' di filosofia, ma no, meglio quel saggio su guerra e pace, oppure no, Alfred Adler è più adatto al mio umore. E poi ho finito per leggere quella storia d'amore indù. Ma stavo semplicemente lottando contro una naturale spossatezza a cui mi sono saggiamente arresa alla fine, e stamattina sembrava che andasse bene per un po'. Ma mentre pedalavo per l'Apollolan è cominciata quella scontentezza, quel cercare irrequieto e sentire il vuoto dentro le cose, sentire che la vita non trova un suo compimento ma è un rimescolio senza costrutto. E in questo momento sono nella palude, e neppure il pensiero che anche questo passa dopo tutto riesce a darmi un po' di pace. Lunedì mattina, le 9:30. Un po' più tardi, una semplice notazione tra due frasi di un tema. È strano, ma in qualche modo esse rimane un estraneo per me. A volte, quando sfiora il mio viso con la sua grande calda mano o le mie ciglia con la punta delle dita in quel suo gesto irripetibile, mi viene poi da ribellarmi. Chi ti dice che puoi? Chi ti dà il diritto di toccarmi? Ora credo di capire. La prima volta che avevamo fatto la lotta era stata una cosa simpatica, sportiva, un po' inaspettata per me. ma ci ero entrata molto in fretta e avevo pensato: si vede che fa parte della terapia. E difatti era così, come esse aveva constatato con distacco a lotta finita. Corpo e anima sono una cosa sola. Certo che ero stata toccata nei miei istinti erotici, ma vedendo esse così oggettivo mi ero prontamente ripresa. Più tardi, quando eravamo di nuovo seduti uno di fronte all'altro, lui aveva detto: «Senta un po', spero che questo non la turbi troppo. In fin dei conti io l'afferro dappertutto». E a dimostrazione di ciò mi sfiorava un momento il petto, le braccia e le spalle con le mani. Io avevo pensato all'incirca: «Sei un bel tipo. Devi sapere maledettamente bene quanto io sia eccitabile eroticamente, visto che me l'hai raccontato tu stesso. In ogni caso sei onesto a parlarne apertamente e per me io vado a posto di nuovo». Esse aveva aggiunto che non dovevo innamorarmi di lui, che lo diceva sempre all'inizio di una terapia. In fondo era un comportamento responsabile, anche se non mi aveva fatto del tutto piacere. Ma la seconda volta era stato molto diverso. Anche esse era diventato erotico allora, e quando a un certo punto si era trovato steso sopra di me e aveva mandato dei piccoli gemiti e gli erano venute le più antiche convulsioni del mondo, allora io avevo avuto dei pensieri proprio bassi, come i miasmi che esalano da una palude. Avevo pensato all'incirca: bel modo di curare i pazienti, così tu hai pure il tuo piacere e per giunta ti pagano, anche se poco. Ma il modo con cui le sue mani mi avevano afferrata durante quella lotta, i gesti con cui mi aveva morsicato l'orecchio o preso il viso con la sua grossa mano, tutto questo mi aveva fatta impazzire. Avevo in tutti quei gesti sentito il tocco di un amante esperto e affascinante. Allo stesso tempo non mi era affatto piaciuto che approfittasse della situazione. Però alla fine quel senso di avversione era sparito e più tardi si era creata fra noi una familiarità, un contatto personale che non si sono ripetuti mai più. Mentre eravamo coricati ancora per terra, lui aveva detto: «Non voglio avere una relazione con lei. E anche, devo confessarle sinceramente che lei mi piace molto». Poi aveva aggiunto qualcosa sui temperamenti simili. E un po' più tardi: «Adesso mi dia un bacetto amichevole». E in quel momento non ero certo pronta e avevo timidamente girato la testa. Lui, invece, era di nuovo se stesso e aveva osservato con naturalezza, quasi riflettendo fra sé: «In fondo è così logico. Sa, io sono stato un ragazzo abbastanza trassognato». E poi seguiva un pezzo della sua vita. Lui parlava e io ascoltavo con abbandono. Ogni tanto mi prendeva molto teneramente il viso con la mano. E così me ne sono tornata a casa con l'animo pieno dei sentimenti più contraddittori: ribellione per il suo basso comportamento, tenerezza, amicizia buona e umana e un gran fantasticare erotico sollecitato dai suoi gesti raffinati. Per un paio di giorni non avevo potuto fare altro che pensare a lui. Pensare non è la parola giusta, era piuttosto una soggezione fisica. Il suo corpo grosso e agile mi minacciava da tutte le parti. Era sopra di me, sotto di me, era dappertutto e minacciava di schiacciarmi. Non potevo più lavorare, pensavo con orrore: «Dio mio, che cosa ho combinato? Sono andata da lui per farmi curare psicologicamente, per trovare un po' di chiarezza in me stessa, e ora mi capita questo ed è peggio che mai». Avevo vissuto pensando al nostro prossimo incontro a casa sua e mi ero messa in testa delle grandi idee erotiche. E questa era stata la famosa volta in cui portavo i pantaloni da ginnastica sotto la gonna di lana, quando le mie sfrenate fantasie erano andate a sbattere violentemente contro il suo realismo oggettivo. Adesso capisco. Esse nel frattempo si era ripreso e aveva recuperato la sua obiettività. Anche lui aveva combattuto la sua battaglia. Mi aveva chiesto: «Ha pensato a me in questa settimana?» Io ero rimasta nel vago e avevo chinato la testa mentre lui aveva soggiunto molto schiettamente: A dire il vero, io ho pensato moltissimo a lei nei primi giorni di questa settimana. Bene, poi seguì un'altra lotta, ma di questo ho già scritto abbastanza. Era una cosa disgustosa e io ebbi quella crisi. Esse non sa ancora perché mi sia comportata in modo così rigido e strano. Crede che fosse la mia eccitazione erotica. Ma anche i suoi conflitti erano venuti allo scoperto quella volta. Infatti disse: anche lei è un compito per me. E mi raccontava che era fedele alla sua amica già da 2 anni, malgrado il suo forte temperamento. Ma io trovavo un compito, una cosa così neutrale e oggettiva. Io volevo essere io per lui. Ero la bambina viziata che voleva avere quell'uomo, anche se il mio cuore non era d'accordo. Nella mia fantasia avevo già deciso che esse sarebbe stato il mio uomo e che lo dovevo conoscere come amante. Punto e basta. Non vivevo molto in alto in quel momento, ma di questo ho già scritto. E ora mi sento pari a lui. Sento che la mia lotta bilancia la sua, che anche in me gli istinti impuri e quelli più nobili si danno battaglia. Ma per il fatto di essersi scoperto tutt'a un tratto come uomo, di aver gettato deliberatamente la maschera di psicologo e di essere diventato persona, esse ha perso un po' della sua autorità. Mi ha resa più ricca, ma in qualche modo mi ha inferto un piccolo colpo, una piccola ferita che non è ancora del tutto guarita e che me lo fa sentire ancora sempre estraneo. Chi sei tu? E chi ti dice che puoi mischiarti nei fatti miei? Rilke ha scritto una splendida poesia su questo stato d'animo. Spero di ritrovarla una volta o l'altra. Dopo aver cercato un po', ho trovato la poesia di Rilke a cui stavo pensando. Me l'aveva letta a Brashka diversi anni fa. Era una sera d'estate. Per qualche oscura ragione pensava che quella poesia si adattasse a me. Chissà, forse perché continuavo a sentirlo estraneo, malgrado l'intimità che c'era allora fra noi. Ora comincio a vedere questa mia ambivalenza, grazie anche al mio attrito con esse e alla chiarificazione che ne è seguita. Qui interessano le ultime 2 righe. E sentii stranamente uno straniero dire: «Io sono con te».